Letture di Radio 24. Nel 2015 l'Alitalia ha perso quasi 200 milioni di euro, ma il personale di bordo dispone di passaggi gratis su tutti i voli, con un costo annuo di circa 2 milioni e mezzo. Nelle ferrovie ci sono 151.000 pensionati iscritti al fondo speciale FS, i cui squilibri gestionali, un buco di 50,2 miliardi di euro tra il 2000 e il 2013, è a carico dello Stato. Ogni anno la Camera spende 1,2 milioni di euro, dei quali 350 milioni pagati direttamente dai contribuenti, per i premi assicurativi dei 630 deputati e dei loro familiari. Tra gli infortuni figurano anche colpi di sole, punture di insetti e infortuni causati in stato di ebbrezza. Sono solo alcuni dei diritti intoccabili segnalati dall'inchiesta di Maurizio Tortorella e Francesco Bisozzi, pubblicata su Panorama del 19 ottobre. Fra i vari privilegi, anche quelli di cui beneficiano i magistrati prestati alla politica che fanno carriera da magistrati. Non bastano le 1560 ore di lavoro all'anno, cioè 30 a settimana e 4,2 al giorno, né gli stipendi notoriamente elevati. Lo scandalo più scandaloso è la carriera garantita a tutti e 9.000 i magistrati italiani e l'automaticità delle valutazioni di idoneità professionale, svolte ogni 4 anni dal Consiglio Superiore della Magistratura, che invece dovrebbero promuovere soltanto i meritevoli. Il giurista bolognese Giuseppe Di Federico ha calcolato che dal gennaio 2007 al luglio 2010 il CSM ha fatto 2.297 valutazioni. E solo per 3 magistrati, di cui uno già in pensione, non sono state positive. Poco più dell'1 per 1000. Parafrasando una vecchia canzone di Gianni Morandi, insomma, 1 su 1000 non ce la fa. A tutti il CSM regala promozioni sulla base del banale decorrere dell'anzianità di servizio. Tanta generosità diventa poi paradosso nel caso dei magistrati fuori ruolo. In gennaio si calcolava fossero 236, quelli in aspettativa per mandato politico sono almeno 10, che da molti anni non esercitano funzioni giudiziarie. L'ultimo caso risale al 15 giugno scorso. Il CSM ha deliberato che la dottoressa Doris Lomoro, per indipendenza, imparzialità, equilibrio, capacità, laboriosità, diligenza e impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della 5ª valutazione di professionalità. Così, la dottoressa Lomoro, nata in Calabria 61 anni fa e da 30 in magistratura, è stata promossa giudice di Cassazione con scatto di stipendio e incremento dei contributi previdenziali. Eppure, se si escludono gli anni tra 2001 e 2005 spesi come giudice penale a Roma, la dottoressa Lomoro non fa il magistrato dal dicembre 1993. Ha dedicato la sua vita alla politica. Per 8 anni è stata sindaco di Lamezia Terme e membro della direzione nazionale dei Democratici di Sinistra. Poi è passata in Regione Calabria e ha presieduto l'Assemblea Costituente del PD. Dall'aprile 2008 è stata premiata con un seggio alla Camera e dal marzo 2013 al Senato, dove è entrata sull'onda di una campagna giocata sullo slogan «L'altra Calabria è femmina». È vero, certi suoi colleghi la battono di gran lunga. La record woman è Anna Finocchiaro, che con 7 valutazioni di professionalità positive è in Parlamento dal giugno 1987. E non è detto che un politico non possa essere indipendente, equilibrato, capace, laborioso, diligente e impegnato. Ma su quale professionalità può esprimersi il CSM, visto che non ci sono né sentenze, né ordinanze, né ricorsi, né altra attività giudiziaria da valutare? Resta poi il problema dell'imparzialità. Lasciamo perdere il divieto di iscriversi ai partiti. Questi magistrati politici fanno politica attiva, siedono in Parlamento per un partito, in nome del quale propongono leggi e votano su questa o su quella materia. Il 26 novembre 2013, per esempio, la dottoressa Lomoro annunciò il convinto sì del PD alla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. È corretto che avanzino in carriera perché equilibrati e imparziali? Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'inchiesta di Maurizio Tortorella e Francesco Bisozzi, L'Italia dei diritti intoccabili, da Panorama del 19 ottobre. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Letture di Radio 24. Da quasi una settimana, gli svedesi cercano di mettersi in contatto con Bob Dylan per comunicargli che ha vinto il Nobel. Invano. Stremati dal suo silenzio, hanno ufficialmente smesso di inseguirlo, confidando che a dicembre raggiungerà comunque Stoccolma in tempo utile per la premiazione, anziché festeggiare in un albergo del Minnesota strimpellando la chitarra su un divano IKEA. In una situazione ancora così sospesa, ci permettiamo di offrire ai parrucconi scandinavi il profilo di un candidato alternativo. Un giovane scrittore costretto a vivere sotto scorta, la cui libertà di parola è minacciata da una consorteria che intimidisce chiunque osi sfidarla e che gode di protezioni altolocate nella società rispettabile. Come avrete capito, sto parlando di Mauro Icardi, il centravanti dell'Inter che a 23 anni ha sentito l'urgenza di scrivere la propria autobiografia e a breve pubblicherà anche quella dei suoi figli. Titolo: Dalle prime poppate all'asilo nido. Per aver osato lanciare dalle sue pagine una sfida ai galantuomini della curva nord, il noto narratore sudamericano si ritrova ingabbiato in una vita d'inferno. Fuori casa con la scorta, dentro con la moglie Wanda Nara, una delle pochissime donne di cui non si sospetta nemmeno lontanamente che possa essere Elena Ferrante. Giurati di Stoccolma, se il dramma di quest'uomo non vi sembra già un motivo più che sufficiente per dargli il Nobel, eccovene un altro che scioglierà i vostri residui dubbi. Icardi è il primo scrittore al mondo che sia mai riuscito a mettere un libro in mano agli ultrà. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Massimo Gramellini, Gli ultrà del libro, dalla stampa del 19 ottobre. Nel mondo del lavoro, la meritocrazia ha sempre avuto un peso poco rilevante nel nostro paese, soprattutto nel settore pubblico. Ma negli ultimi anni sono soprattutto due i fattori che impediscono di dare valore al merito, come scrive Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, in un articolo pubblicato sul mensile Formiche, che prosegue: che succede a una società se la deflazione diventa una categoria dello spirito e finisce per trascinare le aspettative generali in una spirale al ribasso? Succede che va in rovina l'ordine sociale ed economico che conoscevamo, perché per la prima volta dal dopoguerra oggi i figli sono destinati a essere più poveri dei loro padri, meno patrimonio, redditi più bassi, consumi in flessione. Esattamente il contrario di quanto era accaduto nell'Italia del boom economico, quando un'effervescente dinamica inclusiva aveva portato al vertice della piramide sociale i figli delle famiglie operaie e contadine. Nel giro di due decenni si erano ritrovati insieme ai figli della borghesia nel grande invaso del ceto medio. Il miracolo italiano produsse un miglioramento generalizzato delle condizioni di vita, una vitale emancipazione sociale legata alla progressiva stratificazione di redditi, consumi e livelli di istruzione. Poi il ceto medio corse incontro all'onda montante della globalizzazione, che cancellava i confini geografici e abbatteva gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali, delle merci, delle idee, grazie anche alla diffusione di massa delle rivoluzionarie tecnologie digitali, moltiplicando così le opportunità individuali e sancendo il definitivo superamento delle tradizionali distinzioni di classe. Ma ecco che già al volgere del millennio si potevano avvertire i primi sinistri scricchiolii di un progresso sociale non omogeneo, presagio del gelo della recessione che sarebbe arrivato con la grande crisi del 2008. Ora le disuguaglianze sociali ci appaiono di un nuovo tipo, non più di classe, bensì generazionali. Per comprendere le ragioni dell'inedito inceppamento dei processi di mobilità sociale, bisogna metterlo in relazione con un altro fenomeno, che chiama in causa la parabola demografica e la riduzione strutturale della spinta propulsiva dei giovani. Nell'ultimo anno sono nati solo 488.000 bambini, il minimo storico dall'Unità d'Italia. Mentre nell'Italia del boom i giovani con meno di 35 anni erano il 57% della popolazione, nell'Italia del letargo si sono ristretti al 35%. Le giovani generazioni hanno così perso forza di rappresentanza, capacità di pressione, incidenza politica. I millennials che hanno diritto al voto sono 11 milioni, rispetto a un corpo elettorale di quasi 50 milioni di persone. Numeri bassi da contendersi nel mercato elettorale. Quale forza politica scommetterebbe su una componente sociale ridotta al lumicino? La seconda ragione del blocco dei processi di mobilità sociale ha a che fare con un altro record inedito. Nell'ultimo anno gli investimenti in Italia sono stati non solo più bassi rispetto agli altri grandi paesi europei, ma hanno toccato il minimo storico dal dopoguerra in termini di incidenza rispetto al prodotto interno lordo. È il segno inequivocabile del fatto che abbiamo smarrito la cultura del rischio. Gli italiani non tornano a una confidente assunzione del rischio individuale perché sono consapevoli che ogni azzardo lascerebbe impresse cicatrici profonde sulle proprie solitarie biografie personali. Nella percezione collettiva è svaporata la figura dello Stato come garante di ultima istanza delle avventure individuali. Quel ruolo che nei decenni passati, trascorsi nel segno dell'accrescimento della società affluente, l'autorità statuale aveva esercitato tramite gli strumenti redistributivi di welfare finanziati con il debito pubblico, fomentando la grande saga della cetomedizzazione che si basava proprio sull'assunzione individuale del rischio. Nessuno rimpiange uno Stato che accumula debito pubblico, ma oggi non abbiamo ancora trovato un valido rimpiazzo per quel ruolo che spingeva ad assumersi i rischi. Questi due fattori strumentali segnano una vera e propria rottura di paradigma e sono oggi i reali nemici della meritocrazia, perché una società arroccata che non riesce a sciogliere questi nodi non può riuscire neanche a dare valore al merito come leva della crescita sociale. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Massimiliano Valeri, I nodi da sciogliere per far largo al merito, dal numero di ottobre del mensile Formiche. Seguire un parente malato di Alzheimer significa dover raddoppiare le proprie forze, trovando ogni giorno dentro di sé la forza di sostenere il malato, senza però mai lasciarsi andare nei tanti momenti di sconforto. Il diario quotidiano di assistenza alla madre malata, che Viola Balestra ha raccolto nel libro Spremuta di mandarini, racconta di un mondo fatto di silenzio e solitudine, dove trovano spazio anche momenti di leggerezza. In quest'ultimo periodo mia madre piange quotidianamente e se azzardo a farle indossare qualcosa per uscire un po', non se ne parla nemmeno. Manifesta il suo dissenso con copiose lacrime. Si rifiuta di lasciare la rassicurante oasi di casa sua, il suo nido, come se là fuori dimorasse un'ambigua realtà, distante dalla sua comprensione e non trovando la maniera per dirlo con parole, passa il compito alle lacrime. In alcuni momenti passa dal riso al pianto e viceversa. Se mia madre ha le lacrime in tasca, io invece dovrei fare un corso very strong, se ne esistesse uno, per riuscire finalmente a piangere un po', in tutta libertà. Le mie lacrime sono sempre imboscate in maniera tenace, laggiù, in quel profondo non so cosa, e a furia di mantenere quel ruolo sono ormai assuefatte. A volte una certa pressione reazionaria manifesta qualche tentativo di rivalsa, che poi inevitabilmente ripiega su se stesso. Quando le cocciute si inchiodano, mi pare di vederle, le conosco troppo bene ormai, anche in mezzo a mille altre. Sono quelle che caparbiamente resistono, puntando mani e piedi, sospese in quella sorta di condotto verticale e sotterraneo. Resistono alla pressione esercitata su di loro, col timore di perdere le forze e nude morire lassù, mostrate al mondo. Forse c'è un legame tra il rifiuto delle mie lacrime e un sogno ricorrente. Chissà quando cesserà di inquietarmi, di ossessionarmi, di invadere il mio sonno. Il mare. Quell'onda gigantesca che appare laggiù, all'orizzonte. So già che minacciosa raggiungerà la riva, la oltrepasserà e travolgerà tutto ciò che incontrerà. Io, alla vista di quel grigio muro d'acqua, cerco rifugio nei piani alti di un caseggiato, che a volte è anche la mia casa d'infanzia, dove mi ritrovo adulta e combattiva, intenta a chiudere vecchie porte e finestre per impedire al mare di penetrare all'interno. Nonostante la loro fragilità, sorprendentemente, quelle imposte resistono. E la violenza devastatrice dello tsunami, d'improvviso, nulla può. Il mare, ritirandosi, cambia aspetto. È nuovamente l'amico di tutti i giorni, sincero e rassicurante. Io ritorno alla mia stabilità, alla mia sicurezza, rifugiandomi nella mia fortezza di cartone, tanto per usare un ossimoro, che nonostante ciò è sempre in piedi. Per ora. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Viola Balestra, Spremuta di mandarini, appunti in quattro colori. Marco Sabatelli, editore, 146 pagine, 15 euro.